Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eh sì, siamo su Resto Radio Convento, siamo qui per raccontarvi un'altra serata. Io sono Master Nick e vi do il benvenuto sulle frequenze web della nostra radio, che potete seguire, come sapete, tramite l'app Resto Radio Convento oppure www.ristoradio.convento.it. Che cosa succede nella nostra radio? Chi ci segue da tanto lo sa, chi non ci segue da molto lo può scoprire. Allora, solitamente regaliamo un po' questo spazio, apriamo le porte a chiunque voglia provare l'ebbrezza di avere un microfono davanti ai propri occhi e alla propria bocca, oppure per celebrare un festeggiamento importante. C'è questa ragazza che ci ha fatto praticamente, l'abbiamo già denunciata 5 volte per stalking, perché ha fatto 10 minuti di appostamento, sembrava veramente una dell'FBI, fuori dai nostri vetri. Non capivamo se voleva pulirli perché erano sporchi, invece poi abbiamo capito che era semplicemente interessata a provare il nostro microfono, e allora ce l'abbiamo qui. Benvenuta. Ciao a tutti, benvenuti. Oh, come ti chiami? Alessia, e vengo da Bosco Chiesanuova, che è una metropoli interessantissima e grandissima, con 3.000 anime, di cui metà miei parenti. Ah sì, addirittura, cos'è? Avete un clan a Bosco Chiesanuova? Peggio, siamo tipo la mafia del paese. No, comandate tutto. E cosa fate? Cioè, organizzate delle... fate portare dei doni? Peggio, ci viviamo e facciamo una grande festa. A maggior ragione, giochiamo pure a calcetto e vinciamo pure la promozione. Mamma mia, veramente monopolizzano tutto. Allora, tra l'altro, Alessia, ed è quello di cui volevo parlare un attimo, ha un talento, un dono molto particolare. È bello anche condividerlo in radio, per dare modo anche ai nostri ascoltatori eventualmente di sfruttare qualche trucco, che è quello di sapersi imbucare le feste. Io un sacco, ma in realtà... Ma è che, guarda che è un talento, perché non solo è difficile già farlo, ma è difficile, è molto più difficile ancora risultare credibile, cioè nel senso far credere a tutti che tu sia veramente invitata. Ma noi abbiamo una strategia, siamo in 5 e a turno, una alla volta, si finge una promessa sposa. Ok. Quindi fingiamo un addio annubilato sempre, e in pratica no, non posso bere perché ho le mie amiche, e quindi o offre a tutte o non posso accettare, e in questo modo beviamo tutte e 5. Tutte e 5 gratis, incredibile. Guarda, veramente, ma cos'è? Hai studiato marketing? Sei una ladra di professione? Cioè, nel senso... Peggio, abbiamo studiato servizio sociale, quindi c'è psicologia, c'è della psicologia. E stasera cosa state festeggiando, quindi? Dovremmo festeggiare la... Cioè, meglio, scusa, ho sbagliato a parlare. Stasera in quale festa vi siete imbucate? A Uscorbiolo, che è una frazione di Bosco Chiesanuova che conta 800 anime, di cui metà hanno praticamente vinto il campionato e sono in promozione calcetto. Ah, cosa hanno fatto? Una squadra da 400 persone? No, un po' meno. Ah, ok, no, perché sennò era facile vincerlo. Togli gli anziani, più o meno, quello è il numero. Ma giusto. Come avete fatto a sapere di questa festa? Io semplicemente avevo un'amica che è fidanzata con uno dei giocatori, sì? Mi ha detto, oh, facciamo stasera, e mi sono imbucata. Ma perfetto, quindi, ma vi hanno, no, non vi hanno neanche invitato in sostanza, vi hanno semplicemente aggiunto al tavolo. Non ufficialmente, io ho promesso che portavo le amiche, ne ho portato solo una, andava bene uguale. Sì, però avete comunicato, cioè, invece che, ne so, prenotiamo per 20, avete comunicato prenotiamo per 22, punto e basta. Esatto. Ma esatto. Quanti ne conosci all'interno di questa tavolata? No, in realtà tutti, perché paese piccolo. Sì, esatto, più che altro sono tutti parenti, quindi in ogni modo li conosco. Poi che li conosco bene o li conosco poco bene, in realtà è dato dal fatto che è da 3 anni che non vivo più lì. Ah, ok. E per cui in 3 anni ho fatto parecchia festa. Diciamo che la domanda nasceva dalla curiosità di capire, cioè, se i tuoi dialoghi erano reali oppure se giocavi la carta tipo, ah certo, sì mi ricordo quando ci siamo visti. No, ma quindi, tu sei fratello, tu conosci veramente. Capito? Io gioco questa carta. Però in realtà li conosci. Più o meno, ma non tanto. Però insomma, hai modo. Me la gioco ridendo e dicendo che sono bionda, quindi a volte non capisco. No, non sei l'unica. Gioco questa non sei carta l'unica. Che secondo me funziona. Voi bionde, certo, siete forti in questo e avete questa particolarità di saperlo infatti, fare bene. Cioè, in realtà tante bionde lottano contro questo stereotipo, io no, assolutamente lo uso come alibi, che secondo me funziona molto. Amiche bionde, usatelo. Beh, diciamo che funziona se hai qualcosina in più da dare, perché se comunque non hai niente, nel senso, sei proprio basica, no? Esatto, lo rendi reale e non è più stereotipo. Però se invece hai un qualcosina in più da da dare può essere utile per portare a casa buoni risultati, come ad esempio questo. Hai qualche passione, Alessia? Cosa ti piace fare? Ma in realtà no, mi piace un sacco il mio lavoro, che è un po' particolare, mm-hmm. e a parte quello mi piacciono imbucarmi veramente alle feste, io faccio solo quello. Fare di professione. È proprio schifo, cioè me ne rendo conto, però... Beh, prima o poi crescerai. Dai, c'ho 20 anni perché... Esatto, prima o poi cresci e poi ti cambia tutto. Ma in realtà ho visto un tatuaggio abbastanza interessante. Sì, mi sono disegnato una tartaruga, visto che non infatti? Ce l'ho. Almeno so dov'è. In che senso? No? Ah, ma quella tartaruga, pensavo l'animaletto. No, no, infatti. È una linea continua che in realtà ho fatto. Però aspetta, non è una, è una tartaruga, com'è che si chiamano quelle, di quelle, cos'è, delle galap... No, che isola no, è? No, è proprio stilizzata, è fatta con una linea continua e l'ho fatta in una officina meccanica, in una, praticamente un raduno di Harley Davidson. Ah, ok. Sì, però mi pare, o meglio, forse assomiglia al... c'è un'isola che raduna quelle tartarughe lì, adesso non mi viene in mente, l'ora ormai è tarda e quindi le sinapsi cominciano a disconnettersi una con l'altra. Beh, però è particolare, cioè nel senso è originale nel suo... Sì, sì, ma sì, ne sì. Hai altri o cioè, solo quello? Perché no, ne ho in programma altri. Ah, in programma, sì, però sì, al sì. Momento nessuno. È sei la ancora prima in tonsa. Perché mi piaceva l'idea che fosse una tartaruga, nel senso che è un animale di quelli che preistorici, che hanno mantenuto la loro forma, però si sono sempre adattati alle varie ere. Per cui mi piaceva quell'idea. Poi in realtà è una cagata, nel senso che quando l'ho fatto non ero molto cosciente. Però beh, mi piace... si parte così di solito. Ma però sì. Però intanto è da, come dire, apprezzare e notare il fatto che ci sia comunque un senso, un legame forte e un significato di fondo rispetto al tuo tatuaggio, che è, secondo me, il motivo principale per cui bisognerebbe farseli. Sì, io cioè, tatuaggi improvvisati non, cioè, non sono belli e non sono sentiti. Io in i generale tatuaggi... ho paura del per sempre. Tatuarmi è stato per me un grande scoglio in realtà, perché non avevo voglia di fare una cosa per sempre. Sì. E ho capito che in realtà potevo farcela, quindi chissà. Vedi, domani. Vedi, è un inizio, è un buon inizio. Diciamo che a volte la, come dire, l'essere un po' sprovveduti, l'essere un po' coraggiosi, riuscire a vincere questa sorta di paura iniziale, vedi che ti permette anche di aprire delle porticine che sembravano impenetrabili. E questa paura del per sempre si ritrova anche in altri ambiti della tua vita, o quello ti fa bene? Sì, sì, assolutamente sì. Però vabbè, cioè, mi scuso un po' e uso l'alibi che sono giovane, quindi sì, ci sarà modo prima o poi di lavorarci sopra. Sì, poi assolutamente, no? Poi è assolutamente più che comprensibile, più che comprensibile. Vuoi salutare qualcuno? Vuoi dire qualcosa a qualcuno? Io che... vorrei salutare mia madre, che secondo me si vergogna di me. Non addirittura, lo saprà mai. Che addirittura, che no. Ma sì, non ha idea di come sono in realtà. Però non ci sta, dai. Perché lo deve sapere, poveretta. E come sei in realtà? Non l'idea che ha lei, poveretta. Beh, ma cioè, nel senso, in casa o come ti poni nei confronti della tua famiglia? Allora, io in generale... Cioè, ti poni per come sei lavoro, un attimino edulcorata? Ho un tipo di lavoro che mi costringe ad sì, essere molto certo, seria e centrata. Certo. E la mia famiglia ha questa opinione di me. Ok. Nel senso che il 90% del mio tempo, quando poi è finalmente libero, è invece molto leggero e da ventenne. Quindi vabbè, guarda che non è un male, ma da infatti, un certo punto no, di vista non è assolutamente un male. O meglio, io sono dell'idea che non sia un male nel momento in cui tu hai la coscienza di entrare e uscire da questa persona in modo intelligente e sempre coerente con te stessa. Ci provo. Cioè è comunque parte di te, cioè è un po' di te, ma rimani te stessa, cioè non perdendo mai la tua identità. Ecco, questo sostanzialmente, che tu non finga mai di essere una cosa che non sei. Se io tu sei uno e l'altro, ma rimani tu, allora per me va alla grande. Ci provo, perché è il 90% del mio lavoro essere sincera ed essere me stessa, nel senso che non puoi fingere di essere qualcun altro perché non hai credibilità. Certo. Quando non hai credibilità non riesci ad essere soprattutto un professionista in primis, poi figuriamoci una persona. È molto peggio. Beh, però nel nostro tempo libero, quando ci togliamo, diciamo così, della divisa lavorativa, non bisogna nemmeno paura di esprimersi e presentarsi per quello che si è veramente. Ma sarebbe sì, anche un danno allo stesso modo, no? Cioè, il mio problema è che si giudica dalla mattina alla sera. Il problema è perché io non devo essere giudicata. Assolutamente non esiste, e voglio essere materia di giudizio. Perché no? Beh, cioè, lo sono tutti. Esatto, e esatto. Io chi noi sono, beh, il mondo stesso già è una grande piazza in cui essere essere giudicati, anche questo è un bel modo per non aver paura, ecco, del giudizio degli altri. Torno a dire, non uscire mai dal proprio essere, dal proprio se stessi, dalla propria identità. Se no, sai cosa? Gli altri ci percepiscono finti e ci percepiscono un po' di plastica, di plastica. Bene, dai, bello, bello. Speriamo che ti sia piaciuta la serata, speriamo che ti sia piaciuta questa piccola esperienza. Vienici a trovare quando vuoi, e anche perché a quanto sembra sei una professionista dell'imbuco, e quindi mi sa che in qualche modo ti ritroviamo, in qualche modo ho paura che ti ritroviamo. Non ho dubbi. Grazie mille allora, e a presto, alla prossima. Ciao.